Ma lo sai che quei matti d'onda rossa stanno organizzando un altro concertone anche alla SNIA? Ma davvero? E quando lo fanno? Il 26 giugno. Sì, vabbè, ma chi suona? I The Wild dalla Gran Bretagna, un gruppone dove suonano gli Axe, dei Disallarge e dei Brother Bones, i Barookers e i Disorder. Ah, vedi? E poi? E poi suonano pure i Nofu da Roma e i Ragazzi a Parte da Viterbo. E c'è sta pure Apostasia che mette i dischi. Ma davvero? Venerdì 26 giugno, in sottoscrizione a Radio Onda Rossa. Centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173. Dalle ore 21. Musica, stand di Radio Onda Rossa. E da bere? Ma davvero?